L'ausilio, medinese numero 114, di tre versetti. Il nome della sura deriva dal versetto 1. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Quando verrà l'ausilio di Allah e la vittoria? E vedrai le genti entrare in massa nella religione di Allah. Glorifica il tuo Signore, lodandolo e chiedendogli perdono. In verità, egli è colui che accetta il pentimento.